Vorrei intervenire su tre aspetti, si sente? Sì. Che riguardano Bruno Borghi. Il primo aspetto è che secondo me è necessario collocarlo nel contesto del cattolicesimo fiorentino di quegli anni, in quell'ambito che Mario Lancisi diceva, chiamava laboratorio culturale, politico ed ecclesiale, e che secondo me avrei bisogno di aver aggiunto l'aggettivo sociale. Secondo me il dato che accomuna una componente non irrilevante di preti e laici fiorentini è la capacità di percorrere tante strade, di fare tante proposte nel segno della concretezza e dell'azione e, come è stato detto anche prima, di fare queste cose nella radicalità. Ricordare questa comunanza di ideali è essenziale per comprendere interamente la figura di Bruno e sono anche convinto che un po' come si faceva si tendeva a fare con Lorenzo Milani, a rappresentarlo in molte biografie come isolato, non era vero, e lo stesso si è teso a fare di Bruno, e Bruno non era un isolato. Mi spiego. C'erano dei rapporti molto stretti tra appunto quelli che ho definito prima preti e laici fiorentini, e questa cosa ha pesato in questo periodo, non poco. Se non si fa questo, c'è il rischio di fare come si è fatto per un periodo, commemorazioni, santificazioni della personalità, in cui tende a scomparire questa radicalità e questa conflittualità. E cito un esempio: quando nel 2017 il Papa va a Barbiana, il Cardinale Bethori si è potuto permettere di raccontare che Lorenzo Milani e gli altri preti della sua generazione, quindi anche Bruno, finivano in parrocchie di montagna e comunque con pochissimi fedeli nell'ambito di una sorta di tirocinio che poi li avrebbe portati a fare esperienze in contesti cittadini, in parrocchie importanti. Tra molti compagni di seminario c'era un comune sentire sulle questioni di fondo, al di là di differenze che secondo me sono state enfatizzate, ma in realtà non erano particolarmente rilevanti, c'era una fitta serie di relazioni e appunto una radicalità non ideologica, ma di carattere morale, che era poi la fedeltà al Vangelo, che si caratterizzava per la capacità di produrre effetti. Non si trattava di testimoniare, si trattava di agire concretamente, non si trattava di andare a conoscere il popolo, si trattava di esserne parte. E ci sono gli esempi di questa modalità, partecipando alle occupazioni operaie, creando dal nulla una scuola per i bocciati di quella pubblica e da quella scuola molto altro, creando un movimento che rivendica per la prima volta diritti, non assistenza per i disabili, battendosi per l'obiezione di coscienza, costruendo, dopo la fuoriuscita dalla parrocchia, una delle prime comunità cristiane di base, quella dell'Isolotto. E al di là di quello che dice Bitori, ci sarà per questo uno scontro molto duro con le gerarchie, con il vescovo Florit, anche con l'altra parte, quella più reazionaria del clero fiorentino, che non a caso scriverà una lettera sulle vicende, sui contrasti da loro, dove si scrive la famosa frase «o loro o noi», e ci sarà una repressione molto dura che voleva dire finire nelle parrocchie più sperdute e rimanerci per sempre. Nei fatti, allora, molti cattolici fiorentini, dicevo prima, preti e laici, erano più radicali di molti militanti del PC. Lo scrive Pietro Ichino, che è stato un sindacalista, un giornalista, ma soprattutto è stato era un appartenente a una delle più grandi famiglie borghesi milanesi, che aveva conosciuto Lorenzo Milani, era in realtà il personaggio a cui la persona a cui si ispirava il Pierino di Lettera alla professoressa, che i ragazzi di Berbiana avevano conosciuto durante un viaggio a Milano. Ilino parla per Lorenzo Milani, ma quello che dice può valere per molti altri, di classismo etico, di radicalità del suo comunismo che era molto più incisivo di quello del Partito Comunista, predicato non come principio politico-economico, bensì come imperativo morale. E in effetti il PC e poi le varie sigle che lo sostituiranno si occupava fin da allora di gestire il potere e di garantire la pace sociale, con tutte le conseguenze pessime che anche in Toscana si sono viste via via nel tempo. Basta fare un solo esempio: c'è una vicenda tristissima di una comunità, o meglio di una setta del Forteto, che è stata protetta dalla complicità di tutti i poteri, che è una macchia non nera, indelebile, per una regione che una volta si diceva rossa. Io ho vissuto con Bruno la stagione di un gruppo che si chiamava Contro l'esclusione e che veramente, devo dire, confermava nei fatti quel modo di procedere di cui parlavo prima, ossia occuparsi di handicap in termini non assistenzialistici, ma appunto di lotta contro l'esclusione, essendo questa una contraddizione che si accompagna in modo stretto a quello della lotta tra le classi. Promuovere l'uscita dai disabili, dagli ospizi, dai cronicari, farli uscire anche dalle case, dove spesso i genitori si vergognavano della condizione dei loro figli, perché prendono in mano il loro destino, rivendicano lavoro, scuola, servizi. E devo dire che succedeva veramente, con dei risultati concreti che secondo me a oggi sarebbero inimmaginabili. L'altro aspetto che volevo sottolineare è l'importanza di una vicenda che si tende un po' a sottovalutare, secondo me, e che invece dimostra la capacità di Bruno Borghi di intervenire in un ambito che avrà sviluppi e cambiamenti che si possono a questo punto definire epocali. La lettera che, di fronte alla improvvisa rimozione di Monsignor Bonanni da rettore del seminario nel 64, Bruno Borghi e Lorenzo Milani, Bruno è il primo a prendere l'iniziativa, propongono, è la prima occasione, al di là della denuncia del fatto in sé, della richiesta di dialogo, per esprimere un dissenso di fondo all'interno della Chiesa in merito ai rapporti strettamente gerarchici e improntati sull'obbedienza cieca. Direi che non era mai accaduto, anche se le adesioni sono poche, apparentemente un fallimento, la richiesta di dialogo è respinta al mittente, quindi sembrerebbe che appunto fosse un fallimento, ma in realtà niente sarà più come prima all'interno della Chiesa e io penso anche in molti altri ambiti. Gli episodi di contestazione che si succederanno dopo, dall'occupazione del Duomo di Parma alla vicenda Isolotto, alla nascita delle comunità cristiane di Basi, avranno un precedente concreto nei contenuti della lettera. E secondo me anche le prime proteste delle università del 67-68, in cui gli studenti cattolici avranno un ruolo rilevante, in qualche modo avranno quella lettera come riferimento. Infine vorrei parlare di un'ultima cosa. Io chiamo questa questione rischio della privatizzazione della memoria. È un problema che ha riguardato a lungo l'eredità di Lorenzo Milani e che non si è risolto pienamente neanche nel 2017, quando sono uscite le opere complete per i meridiani di Mondadori. E questo problema spinse nel 96 Giorgio Pecorini, che era un giornalista affermato e che era amico di Lorenzo Milani e che era l'unico giornalista accettato a Barbiana, a scrivere diffusamente in un libro denunciando come gli aventi diritto dovere non avrebbero mai dissequestrato l'intera eredità culturale e etica di Lorenzo, di cui pensavano di avere l'esclusiva. Pecorini racconta le deformazioni, le strumentalizzazioni, le appropriazioni, compresa qualche censura su alcune parole delle sue lettere, che hanno coinvolto anche suoi ex allievi, spesso in contrasto tra loro. Quando nel 2016 sono trascorsi 10 anni dalla morte di Bruno, ho pensato al rischio concreto che correva di rimanere nella rappresentazione giornalistica e storica solamente l'amico di seminario di Lorenzo Milani. E per questo ho deciso di provare a produrre una prima ricostruzione della figura di Bruno e delle sue molte vite, con l'appendice e i suoi scritti che erano a suo tempo stati stampati dal centro di documentazione in una collana dedicata agli antimoderati, dove secondo me Bruno Borghi ci sta veramente bene. Ho lavorato solo sulle fonti e sui documenti, non ho cercato per scelta testimonianze, e ho trovato da parte di archivi e biblioteche, in particolare dell'archivio storico della comunità dell'Isolotto, grande disponibilità nell'aiutarmi e a reperire il materiale. Ho trovato invece, e francamente non me l'aspettavo, una sorta di pregiudizio e di diffidenza in un ambiente che pensavo molto vicino alle idee e al percorso di Bruno. E a quel punto mi sono tornate in mente le considerazioni di Pecorini e ho avvertito veramente quanto sia importante praticare il contrario della privatizzazione, cioè la socializzazione della memoria, e di come attraverso questa si possa mantenere una speranza, una prospettiva di azione anche in questi tempi difficilissimi, attraverso la costruzione della soggettività consapevole e partecipata degli ultimi, che è l'unico mezzo, ne sono convinto, per cambiare ancora realmente lo stato di cose presenti e che, secondo me, a me è sempre parso l'insegnamento fondamentale di Bruno Borghi. Grazie.